5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, Quest, A, Una, No Ova Rubrica de Radio Risaca, C, Kayama, East Peak English. Ogni puntata vi presentiamo, one modo di dire italiano, con la sua a translation. Good. Par italiani all'estero. And for the others, to better understand, Italy. Ah, dimantichevo. Sui speaking lisk si ascolta solo musica British. Parola del giorno è today's word. Incartapecorito, che in inglese possiamo tradurre con in paper sheeped, in paper sheephead. Incartapecorito si può usare in vari modi. In genere è un epiteto rivolto a chi ha subito un invecchiamento rapido ed evidente tale da avere un aspetto piuttosto raggrinzito proprio della carta pecora, materiale prodotto attraverso la lavorazione della pelle di pecora, su cui un tempo si usava scrivere. Allo stesso modo si può intendere da un punto di vista spirituale, rivolto a chi ha un cuore inaridito e irrigidito in schemi ormai sorpassati. Dare a qualcuno dell'incartapecorito altresì può essere una esortazione a sbloccarsi. La carta pecora è rigida e rugosa, si può rivolgere dunque a chi, in un particolare momento, rimane incantato senza proferire parola. Ad esempio, svegliati, ma che ti sei incartapecorito.